Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento insieme agli amici dell'ADICO, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, e oggi ritroviamo il nostro caro amico Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Ciao Francesco, un saluto ai radioascoltatori. Allora Gianluca, parliamo oggi di call center. Ormai i call center ogni tanto tornano. Sì, sappiamo che ogni tanto, spesso, infatti, diciamo che non è finito certo l'incubo delle chiamate a casa da parte dei call center alle famiglie, e diciamo che poi la vendita di prodotti tipo energia elettrica e gas avviene anche porta a porta. Insomma, diciamo che in questo periodo il mercato, cioè un mercato selvaggio, perché appunto fra un po' nel 2019 ci sarà la totale liberalizzazione del mercato, quindi insomma tutti stanno cercando di accaparrarsi i clienti, però come possiamo vedere praticamente quasi quotidianamente, spesso questi call center, questi venditori porta a porta utilizzano tecniche non proprio correttissime. Noi l'abbiamo denunciato già anche tramite il vostro programma, la questione per esempio dei contratti stipulati al telefono con persone di una certa età, con persone anziane, sì, molto spesso oltre 80 anni. Secondo noi dovrebbe intervenire sicuramente una regolamentazione, perché ovviamente stiamo parlando di persone che molto spesso non sono in grado di valutare l'offerta, soprattutto se detta al telefono. Ecco, chiaramente in questo momento riportiamo l'esempio di un nostro socio, una persona di più di 80 anni, il quale qualche tempo fa, anzi a giugno, ha ricevuto la telefonata di un venditore di un'azienda che lavora per Enel Energia, e questo venditore gli ha fatto una proposta telefonica a questa persona anziana, che ha anche problemi di udito, per quanto riguarda la possibilità di aderire a un contratto che si chiama Enel OK Impianto, che è un contratto che Enel Energia propone appunto per la manutenzione degli impianti, quindi della caldaia o del contatore. Sì. E questa persona non ha capito assolutamente di cosa si trattasse, però evidentemente nella telefonata ha pronunciato qualche sì e si è ritrovato con questo contratto non voluto, e per il quale appunto venivano richiesti dei soldi in più sulla bolletta, sulla fattura. Ha provato lui stesso a intervenire mandando una lettera a Enel Energia, la quale però ha risposto che la richiesta di annullare quel contratto è avvenuta dopo i famosi 14 giorni che sono concessi dalla legge per recedere, di cui abbiamo parlato molte volte. E quindi questa persona si è affidata al nostro ufficio legale, il quale evidentemente, forte della propria esperienza, ha scritto una lettera a Enel Energia sottolineando che questa persona di 80 anni non aveva capito di cosa si trattasse e non voleva certo aderire a un'offerta che per lui non ha alcuna utilità. Ecco, quindi Enel Energia, e qua facciamo un plauso all'azienda, si è risposto molto rapidamente. In questo caso, al contrario di quello che era successo quando la lettera era stata scritta dall'anziano, e in questo caso invece è stato accolto la richiesta di annullamento del contratto, con tanto di scuse e con una cosa in più che vogliamo sottolineare, e cioè il fatto che Enel Energia ha annunciato comunque che sarebbe intervenuta nel confronto del venditore che appunto aveva fatto questa offerta al socio ottantenne, sarebbe intervenuta perché, come sottolinea Enel Energia, loro si appoggiano a ditte esterne per quanto riguarda la vendita dei propri prodotti, però appunto quando queste ditte esterne non si comportano secondo quanto pattuito, dovrebbero essere bacchettate dalle aziende stesse, come ci ha annunciato Enel Energia, e magari anche multate. Noi ci contiamo veramente che queste aziende intervengano sotto questo punto di vista, perché riteniamo che, e speriamo che veramente nei prossimi mesi si sistemi un po' questa situazione di questo mercato selvaggio in cui vengono stipulati contratti anche con ignari clienti che non si rendono conto appunto di che in quel momento stanno stipulando un contratto di fornitura. Più volte abbiamo detto che bisognerebbe tornare in questo caso sì alla carta stampata, cioè un contratto deve essere visibile, letto con calma dall'utente, e poi una volta sottoscritto, allora quello sarebbe il giusto modo di fare un contratto. Con il telefono è facile che tante piccole cose passino inosservate e che poi uno prenda fischi per fiaschi. Certo, noi avevamo già parlato in altre occasioni, chiediamo appunto che non sia possibile più fare un contratto telefonico, a meno che a questo contratto telefonico non segua poi un contratto cartaceo e dal quale appunto sia possibile anche recedere, perché come dici te giustamente non è possibile che vengano stipulati dei contratti al telefono solo perché magari una persona ha pronunciato un sì a una domanda per esempio sulla giustezza del nome e per un sì si ritrova con un contratto non richiesto, con varie problematiche eccetera. Veramente, torniamo al cartaceo, possiamo anche stipularlo telefonicamente, ma dopo deve seguire assolutamente un cartaceo da firmare. Esatto, va bene, è sempre utile ricordare queste cose perché poi effettivamente i centralini, i call center, chiamiamoli come si vuole, fanno questo per mestiere, quindi loro cercano di vendere il loro prodotto e evidentemente bisogna un po' modificare un po' tutta la legislazione in questo caso. Vabbè, staremo a vedere che cosa succederà, grazie all'Adico che ci informa sempre su tante cose interessanti. Date uno sguardo anche al sito www.associazionedifesaconsumatori.it e grazie a te Gianluca Codognato, ci ritroviamo tra qualche giorno. Grazie a te Francesco. Diritti e rovesci in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.